quelle di Frattino, gli stanchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come te, sto pensando a te. You'll have to feel inside these emotional transitions, all the memories we have. Yes, you know it's true. I just can't stop thinking of you. Nel mio mondo suono sto pensando a te, sto pensando a te. Sono cose della vita, vanno prese un po' così. Thank you. Sunshine for me.